Torniamo insieme qui sui 100-300 di Radio Città Fujiko. Allora stiamo presentando quella che sarà la serata di lunedì 16 luglio, promossa da Campi Aperti e intitolata Microstorie contadine per resistere all'impero. Ne parliamo con Elena di Campi Aperti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, spiegaci un po' il senso di questa iniziativa. Quando ho letto questo libro di Antonella Selva, a parte il fatto che tipo alla fine del libro c'è pure il marchio di Campi Aperti e nella postfazione Mimmo Pepperotta cita la sovranità alimentare come un po' un faro in tutte queste micro storie di resistenze, diciamo, contro l'impero. Impero per noi inteso più come l'impero capitalista del giorno di oggi, più specificamente per Campi Aperti, la GDO. Quindi il senso di questo è che queste tre storie di resistenze contadine, ho trovato molti punti in comune con quello che stiamo provando a fare noi, tutti i piccoli produttori di Campi Aperti, con i nostri mercati nella città di Bologna. Quindi mi sembrava un posto perfetto per presentare questo libro e fare due chiacchiere insieme su di noi, diciamo. Hai citato, come dire, uno dei temi fondamentali, quello della sovranità alimentare. Noi però ci troviamo in un'epoca in cui nel mondo sta prendendo piede il sovranismo, che è una cosa ben diversa, no? La sovranità alimentare è un concetto che cresce, cioè, dal basso, diciamo, la sovranità dei popoli che possono decidere come mangiano, la qualità di quello che devono mangiare di giorno in giorno. Cioè, la sovranità alimentare è appunto è un concetto che, diciamo, che nasce oppure si sviluppa così con la campagna della Via Campesina, nasce dal concetto della sicurezza alimentare che è sempre stato applicato un po' ai paesi poveri del terzo mondo, quest'idea che la gente deve avere abbastanza da mangiare, l'accesso al cibo, però non dice mai che tipo, dice che qualità. Poi man mano è stato un po' l'idea, il pensiero è stato sviluppato in sovranità alimentare, non solo sicurezza alimentare. Questo è applicato a tutte le persone del pianeta, da quelli che hanno molti problemi ad accedere proprio al cibo di qualsiasi tipo, a quelli come noi, che magari abbiamo tutti i supermercati intorno a noi, i prezzi molto, cioè l'accesso c'è, però a che cosa, di che qualità? Ed è lì dove anche a noi, in Europa, nel primo mondo, eccetera, eccetera, di fatto c'è da fare una lotta per tenere stretto la nostra sovranità alimentare, che non so se c'è sempre stato, non so se c'è in realtà in tutto per tutto, tipo questo diritto di poter scegliere la qualità di quello che mangiamo. Non sai né molte volte dove è prodotto, come è prodotto, come è stato trattato nei campi, questo nessuno lo sa mai, quando non è una cosa bio, diciamo. E anche per il bio, ok, quanto è stato in una cella frigorifera, quanto è stato nel supermercato, da dove arriva, cioè quanto è stato nel porto, perché per il bio della GDO può arrivare dall'Argentina piuttosto che da qualsiasi parte nel mondo, e quindi sì, non sai niente della qualità. Questo ha anche a che fare con i semi, con le varietà e questa cosa della tutela della biodiversità. Quando tutto il mondo ha pochi multinazionali, come hanno fatto storicamente, tendono a ridurre sempre di più le varietà, perché le vendite sono più credibili quando tutto è uguale, quando un'arancia è sempre da lo stesso peso, stessa misura, stesso colore, eccetera eccetera. Però questo non ha nulla a che fare con quanto è sostenibile il sistema e quanto ci fa bene mangiare questi prodotti. Nel libro di Antonella, già nel titolo, no, si parla di periferie, e spesso quando si parla di periferie poi viene in mente centro e periferie, si vedono un po' contrapposte, mentre in realtà Campi Aperti ha fatto una come dire, una sorta di alleanza con la città. Sì, esatto, che c'è anche da dire che adesso le periferie, come dice Antonella, sono globalizzate, nel senso che adesso c'è l'internet, adesso ci sono aerei che vanno dappertutto, adesso abbiamo quasi tutti la macchina, un furgone, eccetera eccetera. Quindi diciamo che per noi che siamo nelle periferie, magari in posti abbastanza isolati, eccetera eccetera, fino ad un certo punto, perché perché è un'altra epoca. Però per noi la cosa più sensata era cercare di creare un'alleanza fra campagna e città, in modo di poter vendere i nostri prodotti uscendo dalla logica, diciamo, del libero mercato, la logica della speculazione, della grande distribuzione che ti assegna un prezzo al tuo prodotto. Tipo metti alla zucchina, non so, 10 euro al chilo, così, per motivi di speculazione, di quante zucchine sono in giro, eccetera, eccetera, anziché quanto tempo reale della tua fatica e quanti costi c'erano nel produrre questa zucchina. Quindi, ecco, la nostra alleanza fra campagna e città, diciamo che il primo livello è questo, che ci sono dei cittadini a Bologna che dice no, io voglio lo zucchino che producete voi, perché è di una certa qualità, lo so che lo prendete la mattina stesso e lo vendete e lo producete in un certo modo, eccetera eccetera, io sono disposto sempre a pagare 2,50 euro al chilo, e non importa qual è il vero prezzo del mercato speculato, eccetera eccetera. Fondamentale per la nostra sopravvivenza come piccoli produttori, ma fondamentale anche per la sovranità alimentare di chi sta in città. Nella serata non ci sarà solo la presentazione e le chiacchiere, insomma, insieme a Antonella, insieme a Campi Aperti, ma ci saranno anche dei momenti musicali. Sì, allora, diciamo che queste mettiamo un altro livello di quello che stiamo provando a fare, cioè il livello del potere della cultura in queste piccole resistenze contro quello che abbiamo chiamato contro l'impero. Cioè c'è anche una potenza, l'arte e la cultura è una risorsa, le nostre idee sono una delle nostre risorse più importanti nel provare a creare, non so, una realtà più bella, più ricca in cui vivere. Allora abbiamo deciso di abbinare la musica a tutte le storie, ma musica, per esempio, la prima storia che scrive Antonella ha a che fare con un contadino scozzese nell'inizio del Novecento che fa tutta una resistenza per non dover andare via dalla sua terra, e lì abbiamo abbinato della musica celtica, in tradizione celtica. Poi seconda storia ci porta in Marocco e abbiamo un musicista marocchino che ci farà un po' di interludi musicali, e la terza storia, che è quella più, diciamo, complessa, è la storia della nascita di SOS Rosarno in Calabria, e lì in realtà potevamo avere tante musiche diverse perché quella è una storia corale e i protagonisti sono di molti posti diversi, dall'Africa e anche dalla Calabria. Comunque, come, diciamo, esempio simbolico, c'è un musicista senegalese. E allora non resta che ricordare l'appuntamento per lunedì in Piazza Verdi. L'iniziativa comincia alle ore 18, il mercato comincia un po' prima, un'ora prima, giusto? Esatto, un'ora prima. Esatto, micro storie contadine per resistere all'impero, promosso da Campi Aperti. Grazie mille, Elena, per averci anticipato quella che sarà la serata, che ricordo sarà in diretta sui 103.100 di Radio Città Fujiko. Grazie a te.